9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, ed eccoci quindi arrivati all'ultimo giorno della campagna elettorale per queste tumultuose elezioni regionali. Da diversi anni a ogni campagna elettorale molti osservatori considerano che si sia trattato di un punto ulteriore verso la discesa al basso oppure verso l'allontanamento, prendetela come volete, della campagna elettorale, dei temi sollevati in campagna elettorale rispetto alla vita dei cittadini. Nella realtà poi è un fenomeno oramai particolare, vi sono dei temi che prevalgono a prescindere dall'agenda nazionale, internazionale e regionale, visto che in questo caso si trattava di elezioni locali. Sono i tratti fondamentali poi di questo bipolarismo molto combattivo italiano, e quindi è stata ancora una volta una campagna elettorale dominata dalle indagini della magistratura, dalle polemiche sulle indagini della magistratura, sulle intercettazioni, sull'intenzionalità o la non intenzionalità del fatto che poi tali indagini si concentrano in questo periodo. È stata una campagna dominata dalle polemiche sul ruolo che ha l'informazione, il bavaglio che è stato messo, sul quale non torno perché tante volte ho detto chiaramente come la penso. Credo che sia stato un boomerang e un autogol per la maggioranza molto serio di governo adottare i provvedimenti che hanno ottenuto l'effetto giustamente far apparire gli imbavagliati come delle vittime, perché in campagna elettorale mettere bavagli non è mai una buona cosa, e ieri sera si sono visti gli effetti con la trasmissione di Michele Santoro, non irradiata dalla RAI, ma che ha rappresentato una specie di evento ultimo mediatico poi della campagna elettorale. Ora, oggi, per fare il punto sulla fine di questa campagna, su tutti i suoi temi, oltre ad ascoltare voi con le telefonate che manderemo in onda, due ospiti. Abbiamo diviso la trasmissione a metà per i loro impegni, anche non per impedire il contraddittorio, e quindi abbiamo nella prima parte della trasmissione Rosy Bindi, presidente dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, che ringrazio. Buongiorno onorevole Bindi. Ecco, inizierei subito chiedendole, Bersani ha chiuso quest'ultima settimana con qualche tono in cui, con misura, come sempre fa, devo dire la verità, ha detto: il vento mi sembra cambiare, c'è un vento un po' diverso. Ecco, presidente Bindi, dovesse dirci il vento un po' diverso di questa fine di campagna elettorale rispetto all'inizio o rispetto a chi pensava che fosse, in definitiva qual è? Come potrebbe finire, in senso diverso da come gli osservatori vaticinavano che per voi del PD e per il centro-sinistra poteva andare? Non le chiedo dei numeri, le chiedo proprio degli elementi di fondo. Sì, grazie, buongiorno. Ma noi credo che abbiamo incontrato la nostra gente molto, molto combattiva, molto motivata, e penso che questo sia già un fatto positivo. Non abbiamo colto i segni dello scoraggiamento che magari potevano serpeggiare subito dopo il risultato delle elezioni europee. Abbiamo anche, credo, dopo un po' di fatica, siamo anche riusciti a costruire operazioni unitarie, abbiamo, in alcune regioni siamo anche riusciti a allargare la maggioranza, dico il nostro centro-sinistra, e quindi questo ha finito un po' per dare un po' più di ottimismo, diciamo, alla nostra gente. D'altra parte, i toni che Berlusconi ha voluto imporre a questa campagna elettorale, da ennesimo scontro di campo, dopo lo scontro tra la libertà e il comunismo, ormai siamo passati allo scontro tra la vita e la morte, tra l'odio e l'amore, e questo naturalmente ha ancora una volta di più motivato il nostro elettorato, il quale magari non è sempre molto entusiasta di noi, però il fatto di toni che ha usato Berlusconi a partire soprattutto dalla manifestazione, le promesse assurde che vanno dalla guarigione del cancro alla piantagione di circa 100 milioni di alberi, insomma, ha fatto in qualche modo, io penso, scattare un senso di dignità nel nostro elettorato. abbiamo colto d'altra parte, posso dirlo, una grande divisione nel centrodestra, divisione all'interno del PDL che non è sempre nobile come quella che magari si può registrare nelle differenze tra il presidente Fini e il presidente Berlusconi. Sappiamo i litigi per le liste, qualche alterco un po' meno nobile, e poi questo sorpasso e questa competizione tra la Lega e il PDL, anche questo è sicuramente un aspetto diciamo che ha finito in qualche modo per demotivare l'altra metà campo. Aggiungo che se Berlusconi chiede di votare sul suo governo, è evidente che appare con molta chiarezza che il suo governo non ha operato bene. Ogni giorno in questa campagna elettorale, insieme ai suoi fuochi di artificio e ai suoi effetti speciali, vedevamo aumentare i tassi della disoccupazione, vedevamo aumentare o meglio diminuire i consumi, compresi quelli alimentari, e ogni giorno c'era un'azienda in crisi. Non sottovalutiamo anche l'annuncio, anche se poi smentito, sulla Fiat. Quindi mi pare che a questo punto noi non solo abbiamo alcune realtà regionali nelle quali penso che sia scontata la nostra vittoria, ma ci stiamo, diciamo, siamo in competizione in quasi tutte le altre regioni, e anche laddove è in vantaggio il centrodestra, la nostra gente non è assolutamente scoraggiata. Oh, l'effetto è stato anche quello di sentir dire, non le chiederò un giudizio su questo, restiamo sui temi della campagna elettorale, ma certo, se il segretario del PD nella chiusura, negli ultimi giorni, ha iniziato anche ad accennare all'idea di cui bisogna discutere negli organi del partito, ma per la prima volta non si è ritratto automaticamente di fronte all'idea di poter essere il leader candidato alle prossime elezioni politiche, vuol dire che in effetti in qualche misura la sensazione che queste elezioni non potrebbero essere poi a scadenza naturale in qualche misura è un pochino diventata più concreta. Le chiedo il giudizio che lei dà sulle tensioni nel campo avverso. È un giudizio, ne ha accennato, ma andiamo più a fondo. In realtà, se uno dei dati di cui tutti pensano si avvererà la predizione, e cioè quello della Lega come forte o fortissima addirittura formazione del centrodestra in tutto il nord, anche un po' nel centro, ma insomma come il vero dato di tenuta, al punto tale quasi da cambiare la geografia dei rapporti politici nel centrodestra, con quella Lega così forte per il centrosinistra e per il PD, aumenterebbero i problemi o si aprirebbe invece la possibilità, in passato è stato così, di un dialogo che in qualche misura avvicina la fine della leadership di Berlusconi, cioè diventa un elemento in più di contrasto o un elemento di distinzione su cui il centrosinistra potrebbe in qualche misura far leva? Ma non c'è dubbio che un'altra caratteristica di questa campagna elettorale è l'evidente, diciamo, tramonto della leadership di Berlusconi, certificata più dal suo nervosismo anche questa volta che non da altri elementi. Una Lega più forte aprirà innanzitutto i problemi al loro interno, ma aprirà anche tanti problemi per il paese, perché fino adesso io credo che l'Italia abbia pagato prezzi altissimi per la finta unità dentro il centrodestra, tenuta insieme soltanto, dobbiamo dirlo, dalle capacità di Berlusconi, che secondo me non sono politiche, però capacità innegabili secondo me. Cioè sono metapolitiche, in realtà più che politiche da questo punto di vista, perché insomma a volte risolve con dei colpi che sono al di là della fantasia di chiunque. Insomma. Non c'è dubbio, infatti questa volta che insomma non aveva la possibilità di usare la leva delle tasse da diminuire perché appunto Tremonti gliel'ha impedito, siamo arrivati alle promesse degli alberi e a quella molto cinica intorno al tema del tumore, mi consenta, perché quella la considero veramente immorale, se posso usare questo termine, avendo anche da ministro attraversato la fase di Di Bella, so che cosa vuol dire toccare questi tasti. quindi siamo appunto, sì, ha delle capacità metapolitiche dove ciascuno a quel meta dà il suo significato. Certo. Mettiamoci d'accordo. Sì, sì, sì, no, ma è chiaro quello che sta dicendo. Temo anch'io che il punto preciso che lei ha toccato, questo sul cancro, perché è uno dei classici temi in cui se uno non si hanno le orecchie tappate nei bar, dovunque quello è arrivato, ed è arrivato con un segno in cui io mi chiedo come abbia potuto veramente decidere di toccarlo, convinto che sia popolare, perché la reazione di chiunque abbia, purtroppo, milioni di italiani, un parente, un amico, eccetera, eccetera, e veda scambiato per un tono di campagna elettorale quello, gli si possono fare anche sconti, cioè dice, ah, si vuole, però l'effetto alla stragrande maggioranza, lo dico da osservatore, secondo me è quello che ha detto l'onorevole Bindi. Mi scusi se mi sono permesso, ma perché era uscito questo tema, io sono un volontario che si occupa anche di pazienti, quindi questo, devo dire che questi temi quando vengono toccati così anche a me fanno molto molto riflettere. Però stiamo parlando quindi della Lega. Certo, ritorniamo lì. Io penso che pagherà soprattutto il paese la divisione tra di loro, come adesso ha pagato la loro finta unità. I primi effetti li abbiamo già visti in questa campagna elettorale. Naturalmente, siccome si pensa che la Lega prenda voti perché, per esempio, ha una certa linea politica, ma anche qui di politico c'è veramente poco sul tema dell'immigrazione, naturalmente il centrodestra, compreso Berlusconi, il PDL, sono diventati, su questo tema hanno esasperato l'aspetto, no? Uno dei famosi messaggi è che noi vorremmo spalancare le porte per far votare gli immigrati. Poi in questi giorni si prendono quei provvedimenti che si sono presi a Via Padova, dove tutti dicono, ma è appurato, che se tu spegni le luci a mezzanotte tu crei più insicurezza. Se tu riempi le strade di camionette della polizia puoi avere l'impressione che le cose vadano bene, in realtà tu destini quella parte della città attraverso il coprifuoco, magari la violenza si sposta e non risolvi il problema. Abbiamo visto un silenzio di tomba da parte di tutto il centrodestra sulla decisione del sindaco di Montecchio Vicentino, che ha messo a pane e acqua i bambini i cui genitori non potevano pagare la retta, le saponette distribuite e naturalmente il presidente Fini isolato sul tema della cittadinanza breve ai bambini degli immigrati che nascono qua. Ho citato questo tema come uno emblematico. Quindi la Lega costringerà in qualche modo il PDL ad essere ancora di più radicale, estremista su alcune grandi questioni. Lei non crede all'ipotesi, per esempio ieri Alberto Sattera scriveva su Repubblica, all'ipotesi che la Lega con la sua presenza territoriale e magari una forza anche maggiore di quella che si immagini nel dopovoto possa essere, come diceva Alberto Sattera, la nuova erede della Democrazia Cristiana? Lo chiedo a lei apposta in maniera paradossale, però c'è chi dice che poi una volta che i livelli territoriali di governo vanno nelle mani della Lega si traducono in una capacità di governo molto meno puntuta e polemica di quanto non siano in campagna elettorale. Sì, è vero, io dico sempre che la Lega razzola meglio di come predica male e razzola meglio. Meno male. Diciamo così, è l'esatto contrario di quello che una volta si diceva dei preti. È vero che è così, ma la parte nonostante il razzolare meno male, ciò non riesce comunque a neutralizzare il suo predicare così male. Perché il seme della divisione, dell'individualismo, dell'esasperazione resta e oltre a tradursi nel rapporto tra cittadini ed immigrati, poi attraversa tutte le differenze che ci sono nel nostro paese, compresa, e non la sottovalutiamo, perché la divisione nord-sud è ancora più forte e il rischio di una Lega forte al nord è anche quella della crisi definitiva dei partiti nazionali. Perché intanto stanno nascendo le leghe al sud e temo che Bossi a confederare le leghe non ci metta nulla. Questa può essere un'ipotesi anche per lui, per diciamo un dopo Berlusconi o un pre dopo Berlusconi, no? In questi ci siamo concentrati sulle altre 13 regioni che andavano al voto in questo periodo, ma guardi che quello che sta avvenendo in Sicilia con una operazione di milazzismo in qualche modo, naturalmente scadente, diciamo. No, anche perché poi insomma, riguarda anche un po' parecchio, non solo il centrodestra, ma anche il campo del centrosinistra, cioè è una specie di pentolone in ebollizione alla ricerca di espressioni nuove. Esatto, ha finito in qualche modo per contagiare tutti. Infatti io ho evitato di chiedere, ma chiederò che si faccia una riflessione seria su quello che sta avvenendo in Sicilia, proprio per se vogliamo rilanciare tra gli altri la funzione dei partiti nazionali. Allora, in questo è chiaro che il Partito Democratico non deve star fermo. Lei diceva giustamente, saprete avvantaggiare. È chiaro che se dipenderà dalla nostra abilità politica. Quello che avviene nell'altra metà campo è sempre molto importante, ma appunto bisogna saperne approfittare. Oh, secondo lei, quale sarà per il centrodestra e quindi per il centrosinistra il punto nelle diverse regioni in cui si determina il segno politico preminente del risultato? Cioè è il voto del Lazio, la vittoria della Bonino piuttosto che la Polverini, e la somma di Lazio e Piemonte, cioè un po' di nord e un po' di centro molto importanti in cui le aspettative del centrodestra magari potevano essere più ottimistiche e poi invece non vengono confermate dai dati, oppure altro? Ma indubbiamente il risultato del Piemonte è un risultato molto importante, non ce lo nascondiamo, proprio per il nord e anche per il buon lavoro che ha fatto Mercedes Bresso. Anche lì noi abbiamo lavorato molto, diciamo, e loro hanno lavorato tantissimo, e credo che anche questo, il fatto che Berlusconi sia tornato uno dei suoi sport preferiti, che è quello di usare gentilezze nei confronti delle signore, denoti che in qualche modo il risultato è tutt'altro che scontato. Ecco, noi siamo lì veramente, penso, in una competizione forte e siamo ottimisti, diciamo, in qualche modo. Il risultato del Lazio è sempre un risultato importante, lo sappiamo tutti. È vero che non, per tutto quello che è accaduto, compresa, diciamo, pure la peculiarità, ecco, diciamo, l'originalità anche della candidatura della Bonino, rende il Lazio in qualche modo non può essere paragonato alle altre consultazioni elettorali. Da troppi punti di vista, quindi vedremo come va a finire. È chiaro che l'assenza della lista del PDL ha in qualche modo anche lì rimotivato molto i nostri, e non sfugge a nessuno che la manifestazione era una manifestazione romano-laziale, quella della... Più che nazionale, certo. Devo dire che però la mobilitazione nazionale, insomma, da una parte si poteva anche pensare che la gente volesse più tenersi concentrata nelle regioni e sui temi elettorali delle regioni, che forse, anzi, decisamente nella campagna elettorale hanno finito per contare molto poco. Una telefonata, prima di arrivare, di andare poi alla conclusione con l'onorevole Bindi, scegliamo quella di Bruno da Milano. Bruno, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Allora, la sua osservazione per il presidente Bindi. Sì, due cose telegrafiche. La prima, la signora Bindi non si illuda troppo di quello che succederà questo fine settimana, perché l'operazione mediatica perfetta e strategica della destra di tenere l'elettorato lontano dai temi veri, da quello che è stato fatto o non è stato fatto, per poi dare un voto assennato. Potrebbe riuscire, lei dice? No, è già riuscita perfettamente, tant'è vero che secondo me, a mio avviso, anche perché è stato lasciato tutto l'approfondimento elettorale a quelle tediosissime trasmissioni. Ah sì, certo, Rai, certo. Il tema dell'informazione. Che non si cala assolutamente. Bene, seconda osservazione. La seconda osservazione è legata a questa, nel senso che poi la sinistra, l'organo direttivo della sinistra e il PD in particolare, è stata lontanissima da chi invece ha cercato di scalzare questa cosa. Io ieri ho seguito con molto interesse l'intervento di Santoro, in modo molto critico e, come dire, alla finestra. E lei dice che il centro-sinistra e il PD lo hanno lasciato solo? Solo, ma non è stato per niente appoggiato. Secondo lei questa cosa era appoggiata o... come dire, osteggiata? No, ma quello che conta non è che, secondo me, le sue due osservazioni che giro immediatamente all'onorevole Bindi sono queste. Primo, è riuscita, più che non riuscita come si pensa, la manovra del centrodestra, quella col silenziare tanti temi sull'informazione. Secondo, il PD ha lasciato solo le vittime imbavagliate dell'informazione. Presidente Bindi. Ma non so, certamente noi siamo stati molto molto molto contrari al bavaglio messo all'informazione, proprio perché sapevamo che invece in questo momento c'è maggiore attenzione, maggiore curiosità, che andava in qualche modo soddisfatta per i cittadini. Questo ha portato anche a una maggiore partecipazione agli appuntamenti politici, vorrei qua ricordarlo, che forse non è così male. Non so se gli è proprio riuscito, temo che l'astensionismo in larga parte che si annuncia dipenda esattamente da questo, dal fatto che le persone si dibattono ogni giorno con tanti problemi dei quali non hanno sentito parlare, e penso quindi che non darei per scontato che l'operazione gli è riuscita, che gli sia riuscita, perfetto, che abbia corretto qualche cosa quest'ultima settimana, quando poi dice: io sono stato costretto a scendere in campo perché le cose andavano male. Come al solito corregge un po', può anche darsi che ottenga anche degli effetti. Solo Santoro, no. Questo, anch'io ho un po' questa impressione. Le chiedo una cosa: c'è un risultato elettorale secondo lei che può portare a il non compimento della parte residua di questa legislatura per il governo Berlusconi addirittura? Sì. Guardi, io questa cosa proprio non riesco ad augurarmela. Ecco. Perché non me la auguro per mille motivi. Primo, perché adesso le do la risposta, forse che dovrei dargli per ultima, ma gliela do per prima perché è immediato per me. Noi avremo anche un po' bisogno di qualche anno senza elezioni per dedicarci un po' anche a vedere se è possibile affrontare qualche riforma in maniera corretta nella sede parlamentare, e vorremmo anche un po' dedicarci a riassettare questo sistema politico italiano. Naturalmente noi, a partire dalla nostra metà campo, costruzione del Partito Democratico e del nuovo centrosinistra. Non me lo auguro, perché il Paese non ha bisogno di altre elezioni, avrebbe bisogno di un governo che, volta sua, magari ascoltando i sindacati, il Paese, le categorie produttive, l'opposizione in Parlamento, si decidesse a fare qualcosa. Non me lo auguro, perché è evidente che se si va a votare prima, il tema è quello, ancora una volta, insieme al cancro e agli alberi, è il presidenzialismo. Cioè, non si va a votare per rinnovare il governo, si va a votare perché c'è qualcuno che vuole trascinare ancora il Paese ad un drammatico scontro, e tra l'altro ponendo il tema del presidenzialismo sul tappeto nel modo nel quale Berlusconi l'ha posto. Ancora non ha deciso se vuole l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Capo del Governo. È chiaro che, a parte che non ci sarà nessuna nostra disponibilità, perché l'idea di costituzionalizzare la svolta autoritaria e populista che lui ha impresso all'Italia non ci troverà mai disponibile. E questo mi pare giusto, è logico, voglio dire, ormai non mi aspetterei una convergenza su un tema così a questo punto della legislatura. No, non sarebbe, e sarebbe un ennesimo scontro dentro il quale, naturalmente, ancora una volta, i problemi dell'economia, delle famiglie italiane, sarebbero non solo dimenticati ma cazzati. Va bene, io ringrazio il presidente Bindi, abbiamo tentato di parlare dei temi di questa campagna elettorale, appuntamento con lei come con tutto il centrosinistra e al commento del dopo voto, quando gli italiani hanno deciso quanti di loro andranno a votare e chi davvero stuporranno a sorpresa. Eccoci tornati in studio per questa seconda parte della riflessione finale di campagna elettorale, per la nostra trasmissione intendo, e abbiamo con noi il ministro Maurizio Sacconi, ministro del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali. Buongiorno e grazie, ministro. Buongiorno a lei, l'ascoltatrice e gli ascoltatori. Ecco, la stessa domanda iniziale che abbiamo rivolto al presidente Bindi. La sinistra dice: abbiamo alla fine della campagna elettorale registrato nel nostro popolo, diceva la Bindi, quello del centrosinistra, molto più ottimismo che all'inizio. Forse il risultato potrebbe essere diverso da quello che molti vaticinavano all'inizio. Le chiedo, in chiusura di campagna elettorale, invece, nel campo dei sostenitori, ma della maggioranza, del governo, o comunque dal suo punto di vista, come è cambiata la cifra del contatto con l'elettorato alla fine di questa campagna elettorale rispetto all'inizio? Nel momento finale della campagna elettorale abbiamo avvertito una maggiore consapevolezza delle elettrici e degli elettori circa la posta in gioco. Probabilmente all'inizio questo voto regionale era sentito fino ad un certo punto dall'elettore moderato, mentre poi via via si è avvertita la drastica alternativa che abbiamo di fronte, quella tra un periodo di 3 anni di governo senza interruzioni elettorali, cosa che non ha molti precedenti nella storia del nostro paese, e nel corso dei quali ragionevolmente sarà possibile attuare un percorso riformatore che ci consenta di cogliere anche le opportunità che provengono dal grande cambiamento che è in corso nell'economia e nella politica mondiale, oppure una fase di instabilità, ancora una volta di instabilità, determinata magari anche dal conflitto istituzionale fra Stato e regioni ostili, e una situazione nella quale un'opposizione rafforzata minerebbe soltanto la coesione sociale. Io credo che questa drastica alternativa sia presente ai più e non possano che scegliere nella maggioranza la via della stabilità. Devo dire che la stessa Presidente Bindi alla fine ha detto: non riesco ad augurarmi che non ci siano 3 anni di governo concentrato sui problemi del paese. Vedremo se poi il centrosinistra terrà fede a questa lettura del risultato elettorale. Una osservazione chiediamo anche a lei, però, su il nord. Iniziamo dal nord. La sensazione che lei ha della temperatura rispetto a questo dato, che è diventato poi uno dei criteri di lettura addirittura del voto elettorale, vedremo poi se confermato dal voto, e cioè l'ipotetico rafforzamento della Lega, i rapporti interni tra Lega e PD. Molti elettori del centrodestra sono ancora in questo momento incerti se votare il Popolo della Libertà o la Lega. Credo i più abbiano deciso la coalizione, ma come ho detto magari non quale voto all'interno di essa. E per cui c'è una legittima competizione anche all'interno della coalizione di maggioranza, che pure è legata da un progetto strategico. Basti pensare alla volontà comune di realizzare in questi prossimi 3 anni il federalismo fiscale, quindi quel necessario completamento nel segno della responsabilità della devoluzione di poteri alle regioni. Cosa che mi consente di ricordare rende questo voto straordinariamente diverso da quello francese, cioè i francesi hanno disertato le urne ma per entità territoriali molto poco dotate di poteri, poco più che pro loco probabilmente. Nel nostro caso invece appunto si tratta di regioni già oggi dotate di straordinarie funzioni e che nei prossimi anni vedranno ancora più incrementata la loro capacità operativa e la loro responsabilità. Come ho detto, competizione legittima dentro la coalizione di maggioranza. Io non posso che ricordare alle elettrici e agli elettori che il Popolo della Libertà è il grande movimento politico nazionale che ha certamente nel nord un forte radicamento e dal nord esprime il Presidente del Consiglio. Uno dei temi che nei sondaggi divide l'opinione pubblica un po' meno di quanto divide i politici è in realtà il giudizio sulla condizione economica del paese e sulla tenuta economica del paese. Il centro-sinistra dice il centro-destra tende a far sparire la crisi dai temi di campagna elettorale e agli occhi della gente. Nei sondaggi moltissimi italiani dichiarano di aver capito e apprezzato che poi l'Italia, se non balla sui mercati internazionali come la Grecia, di cui si occupa oggi il Consiglio europeo, è anche perché siamo riusciti ad avere un modello di coesione di tenuta, gli ammortizzatori sociali estesi e così via. In questa fase, nei 3 anni che ci aspettano, se c'è un risultato di stabilizzazione che consente al governo di andare avanti, su questo tema che cosa l'elettorato può aspettarsi dopo l'estensione in deroga dagli ammortizzatori che è servito per affrontare l'emergenza? Ma il lavoro rimane il primo obiettivo. Noi dobbiamo affrontare questa trasformazione globale con la determinazione di poter raggiungere nuovi livelli di crescita e di benessere. Ovviamente questo comporta un fortissimo aggiustamento del nostro sistema produttivo e quindi per molte persone probabilmente la transizione da un posto di lavoro all'altro, e questa fase difficile richiede un forte accompagnamento delle persone. attraverso la protezione del reddito, ammortizzatori sociali a disposizione di tutti i lavoratori subordinati, proprio per proteggerli nel momento in cui sono costretti all'inattività. La dotazione straordinaria continuerà finché ciò sarà necessario. Allo stesso tempo però dobbiamo investire soprattutto sulle competenze, sulle conoscenze delle persone, perché la loro occupabilità, la loro possibilità di essere occupati si lega molto alla, anche spesso alla riconversione delle conoscenze, delle competenze. Un minuto dopo la formazione delle nuove giunte regionali, io riconvocherò quel tavolo Stato, Regioni, parti sociali che nei giorni scorsi ha realizzato un importante unanime accordo su nuove linee guida per la formazione, perché abbiamo bisogno di formazione che formi, non di formazione che faccia la festa dei formatori come spesso è accaduto. Quindi se la cifra fondamentale della nostra politica del lavoro sarà l'investimento nelle competenze e ovviamente lo sviluppo di servizi che nei territori regionali accompagnino quanto più le persone a nuovi lavori, a partire anche dal monitoraggio dei fabbisogni professionali, dei lavori che vengono cercati e spesso non trovati, perché in relazione a questa informazione fondamentale dobbiamo accompagnare i giovani nei percorsi educativi e gli adulti nei percorsi di aggiornamento di competenze. Da questo punto di vista è inipotizzabile davvero un rapporto diverso con l'opposizione, secondo lei, con parti dell'opposizione? Perché nella parte iniziale della crisi sembrava di poter evolvere così il rapporto con l'opposizione, poi certo c'è un problema aperto con la CGIL. Che cosa si aspetta adesso in questa nuova fase, dopo il congresso della CGIL, un atteggiamento diverso o un no altrettanto risoluto? Vedo un'opposizione molto incerta sulla via da prendere. La CGIL tra poco farà il congresso, come ha detto, e io spero che rifletta sul fallimento del suo sciopero isolato, del suo sciopero politico alla vigilia delle elezioni. Spero che in ogni caso ci sarà collaborazione leale fra Stato e Regioni, perché molti dei poteri che riguardano proprio il lavoro sono delle Regioni, sono le Regioni che hanno competenza in tutto ciò che chiamiamo politica attiva del lavoro, cioè attivo accompagnamento delle persone attraverso la formazione, attraverso i servizi di incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro, cioè di collocamento. E quindi sarà importante avere comunque un'opposizione cooperante, positiva e non desiderosa invece di giocare al tanto peggio tanto meglio con l'idea di far cadere il governo eletto dagli italiani. Questo è un dubbio che credo in questo momento non può essere sciolto. Eccoci tornati in studio, siamo con il ministro Maurizio Sacconi per fare il punto su questo fine di campagna elettorale per le regionali. Chiedo al ministro della Lega, ci siamo già occupati, avete sentito il suo appello agli elettori moderati in questi giorni decisivi a considerare l'ipotesi del rafforzamento dell'asse centrale della maggioranza e del governo. Le chiedo anche un giudizio sulla strategia che ha seguito l'UDC e l'onorevole Casini. L'onorevole Casini oggi in un'intervista alla stampa dice: il premier Berlusconi è già un leader dimezzato, si vede che è confuso. Poi a quel punto, di fronte al giornalista che lo incalza, gli dice: vabbè, allora praticamente lei ha scelto, si metterà con Bersani. Dice: beh sì, però deve mollare Di Pietro. E il giornalista gli fa osservare: beh, ci pare difficile, perché uno dei risultati ipotizzabili da queste elezioni è che l'asse con Di Pietro, il tono anti-berlusconiano più giustizialista, è una conferma rafforzata per il futuro a breve del centrosinistra, più che una scelta indebolita. Un giudizio su questa strategia del doppio forno dell'UDC dal suo punto di vista, onorevole Sacconi? Ma guardi, fin dall'inizio dei negoziati per la composizione delle alleanze nelle elezioni regionali, l'UDC è parsa determinata a far vincere la sinistra in Puglia e in Piemonte, cioè in due regioni importantissime. E non si è fermata nemmeno di fronte al fatto che il candidato della Puglia, poi risultato Nicky Vendola, cioè una persona lontanissima dai valori della cultura dell'UDC, ha preferito andare da sola piuttosto che allearsi con noi, e andare da sola è un modo per aiutare Vendola, ovviamente. Come dall'altra parte non si è fermata di fronte alla candidatura della signora Bresso a presidente della regione Piemonte, che è quanto di più lontano si possa immaginare dai valori dell'Unione di Centro, dai valori che dichiara l'Unione di Centro. Penso per in particolare un valore fondamentale come quello del riconoscimento della necessità di tutelare la vita dal concepimento alla morte naturale. Quindi un valore basico, fondante per la stessa Unione di Centro, che viene accantonato per queste due fondamentali alleanze realizzate con D'Alema. Questo la dice lunga sull'atteggiamento dell'UDC, come pure la ridicola pretesa che il Partito Democratico si separi da Di Pietro, con il quale invece, al contrario, nel corso di questa campagna elettorale ha molto e molto rafforzato il suo legame, al punto che spesso ci è parso Di Pietro guidare la campagna elettorale dell'opposizione. Da un suo punto di vista, l'operazione condotta per effetto di provvedimenti vari e diversi sull'informazione e soprattutto sulla RAI in questa campagna elettorale è stata un'operazione giusta oppure potrebbe avere degli effetti imprevedibili di boomerang nella reazione dell'elettorato? In altre parole, aver rifatto di Santoro, nel bene perché è convinto di quello e nel male perché è convinto della tesi opposta, una specie di discrimine della maniera di fare informazione, al punto tale da non fargli fare la trasmissione, da fargli fare cose come ieri sera fuori dal circuito Rai e così via, fosse dipeso da lei, sarebbe andata così o diversamente? Ma non... Guardi, io considero innanzitutto il fatto che le decisioni che sono state prese sono una conseguenza della legge sulla par condicio. Io spero che il vero effetto di quanto è accaduto sia quello di modificare la legge sulla par condicio, questa assurda legislazione che mette sullo stesso piano il partitino più piccolo e la formazione più grande. Guardate come è stata l'informazione, come ha dovuto essere l'informazione politica in base a questa legge. Non mi riferisco a chi non c'era, cioè alla trasmissione che non c'erano, ma a quelli che c'erano, alle più piccole e più improbabili formazioni messe sullo stesso piano dei grandi movimenti politici. Io confido che sia questo l'esito. Dopodiché, sì, sono portato a pensare che ogni volta che la gente vede un certo tipo di trasmissione così esasperatamente ideologizzata, non possa che reagire negativamente rispetto a questo tipo di informazione. Però è anche vero se la legge riguarda la parità di trattamento delle diverse posizioni politiche, siamo in presenza con quelle trasmissioni di trasmissioni iperpoliticizzate, straordinariamente politicizzate, esasperatamente politicizzate, e sarebbe un bel paradosso se esse si sottraessero a questa regola, che non condivido, che mi auguro cambiamo quanto prima, ma che purtroppo c'è. Ora, l'onorevole Bindi prima ha detto che il segno politico, la lettura del segno politico preminente delle elezioni potrebbe venire dal risultato in Piemonte al nord e nel Lazio soprattutto al centro. Dal suo punto di vista, per il governo, per la maggioranza, per il centrodestra, il segno politico preminente dove potrebbe venire? Ma certamente la vittoria in Piemonte per noi sarebbe un risultato straordinariamente importante, e io credo che sia davvero a portata di mano. Se tutti gli elettori moderati avvertono la possibilità concreta di cambiare governo in una regione importante come quella, in una fase in cui un'economia industriale importante come quella piemontese deve riorganizzarsi e ha bisogno di un governo regionale favorevole all'impresa, ecco, questo sarà certamente un dato importante, come, non lo so, vedo importante il nostro risultato in Campania, perché sarebbe la conferma che chi sbaglia paga, che cioè chi ha determinato un vero e proprio fallimento della regione con i conti della sanità non può che essere sostituito, così come ovviamente mi auguro risultati positivi in tutte le altre regioni. L'opinione dell'onorevole Bindi è stata che l'operato di Berlusconi in questa campagna elettorale lo rende un po' appannato, e lo stesso giudizio espresso dall'onorevole Casini, e al contempo però la Bindi diceva il centro-sinistra non può che augurarsi di non essere di nuovo alle prese poi alle prossime politiche con un giudizio su Berlusconi sì, Berlusconi no, perché questo è esattamente quello che non vorremmo fare, quindi un atteggiamento di chi teme poi alla fine il risultato se si chiede agli italiani questo tipo di scelta. Posso chiederle, dal suo punto di vista, il Berlusconi che ha detto sono stato costretto a usare questo tasto dai pubblici ministeri, è un Berlusconi che usava una carta di forza dei confronti dell'elettorato, la stessa Bindi non ce l'ho escluso, o è un Berlusconi che non si aspettava davvero i pubblici ministeri, le indagini, le inchieste? Insomma, quando avete impostato la campagna elettorale e ne avete parlato in Consiglio dei Ministri, pensavate di occuparvene meno lasciando fare di più alle regioni? Ma noi abbiamo sempre messo nel conto l'anomalia italiana finché non riusciamo a risolverla attraverso le necessarie riforme istituzionali. L'anomalia italiana è quella di questa campagna elettorale, basti pensare che cosa si è scatenato in prossimità del voto. E vedremo immediatamente dopo il voto come già molte delle stesse inchieste si evidenzieranno nella loro inconsistenza e via via sfumeranno. L'anomalia italiana sta qui, nell'uso delle armi improprie da parte di una opposizione che non riesce a costruire un progetto politico alternativo, che quando ha governato nel biennio del governo Prodi con una intensità straordinaria ha introdotto nella nostra società straordinari elementi di freno che abbiamo poi dovuto cercare di rimuovere, ancor più nel momento in cui è partita la grande crisi, con una sinistra che fa paura di fronte al mercato finanziario globale così instabile, la sindrome della Grecia o del Portogallo o della Spagna, cioè di paesi che non seguono una disciplina di bilancio, fa paura anche nel nostro paese nell'ipotesi che governi una sinistra le cui uniche proposte sono sempre aumenti di spesa pubblica. Io non ho mai sentito una proposta che comporti un contenimento della spesa o una sua coraggiosa razionalizzazione. Sono tutte le proposte fatte dalla sinistra nel segno dell'aumento della spesa e tanto noi in questi due anni abbiamo avuto per fortuna stabilità nonostante la grande crisi finanziaria e il grande debito che abbiamo, quanto se questo paese dovesse essere governato da chi non ha questa cultura potrebbe entrare davvero in una terribile condizione di instabilità. Quindi Berlusconi è suo malgrado ancora una volta al centro dello scontro, parafulmine di tutte le tensioni organizzate direttamente o indirettamente da una sinistra che non si fa socialdemocratica ed europea. Bene, io ringrazio il ministro Sacconi, a chi in ascolto ricordo che io gli do personalmente atto al ministro Sacconi, visto che abbiamo chiuso sui temi del contenimento del deficit sulla sanità, cioè sull'80%, 85% della spesa regionale, do atto al ministro di aver avviato coraggiosamente le procedure di rientro coattivo delle regioni che non rientravano e che non rispettavano gli impegni, arrivando al commissariamento. Io sono dell'idea che per equilibrare e fare efficienza bisogna fare anche questo, e di sanità secondo me si è parlato un po' poco nelle regioni che le sanno fare miglior qualità spendendo meno e quelle invece che sprecano molto, fanno molto deficit con peggiori servizi. Comunque pensateci, cari ascoltatori, avete le ultime ore a disposizione. Grazie a Sacconi, grazie a Bindi, l'appuntamento con noi è a lunedì lì nel Giornale Radio.